Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, domani. Domani, è una grande, domani. È una grande la carne, quella di Torino. È una grande giornata per Cuore e Denari. Quindi sono partita così piena di entusiasmo che mi sono subito naturalmente impappinata. Perché per ci la metti diretta il cuore. Ci metto il cuore. I denari non ce l'abbiamo, non ce li posso mettere. Troppo. Allora, ma per la diretta del mattino lo vogliamo già anticipare? Che ospiti super speciali abbiamo? Lo diciamo. Ma dove vanno tutti e tre in diretta radiofonica? Dove se non qua? Solo da noi. Il grande trio. Domani. Chi sono? Aldo, Giovanni e Giacomo. Che presentano? Presentano, ci raccontano, partono dalla loro vita, 25 anni di vita insieme, di una storia di amicizia, di grandi successi, un libro, poi un film, ma soprattutto vengono la loro qua per simpatia, i nostri per noi. Amici. Esatto, questa volta veramente, perché noi li abbiamo avuti qualche volta, però tutti un po' individualmente, no? Separati. E invece stavolta anche Aldo Baglio ha voluto essere con loro. Sì, perché Giacomo e Giovanni corrono, esatto, scrivono libri, Aldo invece sembra che giochi a tennis. Di libri al momento non li ha scritti. Pare che ci sia questa diceria, insomma, quindi ce lo verrà confermato. Questo libro l'hanno scritto tutti insieme e ci raccontano Bene. Tre uomini e una vita. Bene, tra l'altro noi già da ieri sui nostri social network abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di segnalare il loro sketch preferito del trio e quindi più gettonati poi li sceglieremo e li riascolteremo in trasmissione. Che ne dici? Con piacere. Nel pomeriggio di domani invece, siccome è la giornata un venerdì di fuoco per questa abbinata invece di Cuore e Denari per me e Nicoletta, c'è un altro appuntamento molto atteso, quello di Investire Informati Live qui all'Auditorium del Sole 24 Ore. Avremo i nostri esperti di risparmio tutti per voi. Oggi peraltro torna Lorenzo Alfieri di JP Morgan e anche lui domani sarà con noi. C'è ancora tempo per iscrivervi, ci sono ancora posti, affrettatevi, è R18, è gratis e basta compilare il form che trovate sul sito di Radio 24. Lo stiamo divulgando anche attraverso le nostre pagine Facebook e Twitter. Il nostro consueto appuntamento con la scuola di risparmio di Investire Informati comunque ci aspetta anche oggi come ogni giovedì. E noi spegniamo le luci, signori esperti, preparatemi le domande. Ci sarà anche il domandone, Deborah. Domani? Non ci ho ancora pensato, ma magari lo faccio. Oggi c'è a scuola di risparmio anche. Quindi ti coinvolge anche, peraltro. Ne ho scelto uno un po' me a l'hai tradimento. Detto. E infatti un po' mi sono preparata perché ho orecchiato qualche cosa. Intanto preparatevi per il domandone della scuola di risparmio, a cui saprete sicuramente rispondere. Invece se ci chiedessero a bruciapelo di localizzarlo, a cosa serve, che cosa lo danneggia, che cosa invece può proteggerlo, sono certa che avremmo qualche difficoltà a rispondere. Di che cosa sto parlando? Di chi sto parlando? Bene, del pancreas, che a dispetto di questa mancata notorietà è un organo molto importante e complesso che è bene imparare a conoscere. Oggi ci aiuta uno dei massimi esperti, il dottor Giampaolo Balzano, che è responsabile dell'unità funzionale di chirurgia pancreatica dell'Istituto Scientifico all'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottore, bentornato e grazie. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Allora dottore, la ringrazio per essere qui con noi, perché di pancreas si parla poco, sicuramente è un organo meno popolare di fegato, cuore, reni, ma credo che ci sia anche una sorta di resistenza a parlarne, perché chi lo conosce lo teme, sa che può ammalarsi anche molto seriamente e spesso tendiamo ad evitare, dottor Balzano, quello che ci fa paura. Quindi del pancreas sappiamo che c'è, non sappiamo esattamente dove si trova, che cosa faccia di preciso, però sappiamo che è un tipo che insomma può darci dei problemi anche seri, quindi lo lasciamo lì un pochino in disparte. Invece, ecco. Spesso abbiamo paura delle cose che non conosciamo e questo è vero anche per il pancreas, che è sicuramente un organo che si conosce molto poco rispetto ai suoi colleghi. E oggi siamo qui perché è la giornata mondiale del tumore del pancreas, quindi parleremo di questo argomento, la giornata mondiale del tumore del pancreas, ma è necessario fare subito delle precisazioni, appunto, che questa giornata mondiale del tumore del pancreas o quello che viene inteso come tumore del pancreas, quello così temibile, in realtà è un tumore che ha un nome e cognome molto preciso, che si chiama adenocarcinoma duttale del pancreas, ed è questo il tumore, diciamo, fra i più aggressivi, quello più temuto, ma non è certo il tumore del pancreas più frequente. Le persone non sanno che la stragrande maggioranza dei tumori del pancreas, per fortuna, sono benigni e che questi tumori ci faranno compagnia per tutta la vita senza darci nessun problema. E se posso usare dei numeri per farmi capire, diciamo, di questo adenocarcinoma duttale del pancreas, ci sono 13.000-15.000 persone che sono ammalate di questo tumore in Italia, mentre invece le stime più recenti fanno pensare che ci possono essere 1 milione di persone che hanno delle cisti pancreatiche, che sono dei tumori benigni, e un altro 500.000 di persone che potrebbero avere un altro tumore pancreatico sostanzialmente benigno, che è il tumore neuroendocrino. Quindi nel 99% di questi piccoli tumori del pancreas, questi ci faranno compagnia per tutta la vita senza darci nessun problema. Certo che appunto invece per questo adenocarcinoma duttale la situazione è ben diversa. Dottore, insomma, anche il pancreas si è guadagnato un po' la sua giornata, una giornata che aiuta a prendere consapevolezza, a sensibilizzare la popolazione, ma credo anche a sottolineare il ruolo della ricerca, invitandoci a sostenerla. Soprattutto la ricerca sul pancreas è molto importante. A proposito, dottor Balzano, quali sono i risultati più importanti di questi ultimi anni? Le scoperte che potranno cambiare la cura del tumore del pancreas? Allora, dal punto di vista della cura abbiamo fatto dei passi avanti, abbiamo ancora molta strada da fare, ma sicuramente anche soltanto negli ultimi 10 anni veramente la situazione è molto cambiata. Allora, io come lavoro faccio il chirurgo, quindi metto prima la chirurgia, che non ha il ruolo fondamentale nella cura di questo tumore, ma è sicuramente un'arma molto importante. Allora, dal punto di vista della chirurgia, in questi anni si sono sviluppati dei centri specificamente dedicati alla chirurgia pancreatica, e questa specificità ci permette di ridurre il rischio di complicazioni, in particolare il rischio di morire per la chirurgia, e permette di eseguire anche interventi più complessi per risolvere delle situazioni complesse, insomma, situazioni anatomicamente più complesse, ed inoltre sappiamo anche, abbiamo imparato a selezionare i pazienti che davvero beneficeranno della chirurgia. Un altro passo avanti che abbiamo fatto è quello dell'identificazione di lesioni pretumorali, in particolare delle lesioni cistiche, che possono acquisire progressivamente delle caratteristiche preoccupanti e che noi abbiamo imparato ad individuare e che ci permettono di intervenire prima che si sviluppi il tumore, quando il tumore è ancora in una fase molto precoce, che non ha ancora avuto possibilità di dare metastasi. Un altro passo avanti importante riguarda la chemioterapia. La chemioterapia è l'arma fondamentale, diciamo, nella maggior parte dei casi i pazienti col tumore del pancreas devono essere sottoposti a chemioterapia. Soltanto 5 anni fa si utilizzava come terapia standard un solo farmaco, chiamato gencitabina, e che purtroppo aveva delle risposte, cioè dei tassi di riduzione del tumore con l'uso di questo farmaco erano piuttosto bassi, tra il 10 e il 15%, mentre invece attualmente si utilizzano gli schemi di policemioterapia, il cui tasso di risposte è molto più alto, anche superiore al 50%. Quindi, questo, diciamo, quello che abbiamo acquisito fino ad adesso. E poi ci sono le prospettive, se vogliamo parlarne. Un futuro abbastanza prossimo, dottor Balzano, su che cosa state lavorando? Allora, io credo che il cambiamento delle prospettive della cura del tumore del pancreas avverrà nei prossimi anni, non tra 20 anni. Ecco, io penso che ci sia in questo momento la possibilità di acquisire nuove forme di terapia tra 5 o 10 anni, e la chiave, secondo me, quello che cambierà radicalmente la cura del tumore del pancreas è l'individuazione dei geni alterati di ogni singolo tumore, cioè i lavori sul genoma tumorale. In particolare, quello che noi abbiamo intuito, quello che stiamo imparando, è che in realtà ogni tumore è diverso dall'altro, e forse anche all'interno dello stesso tumore ci sono popolazioni cellulari diverse l'una dall'altra. Noi in questo momento trattiamo tutti i tumori come se fossero la stessa cosa, mentre invece abbiamo la certezza che non sia così, che ci siano delle cellule che si comportano diversamente, che sono modificate in maniera diversa, e noi potremo, con l'identificazione dei geni alterati di ogni specifica, di ogni specifico tumore, di ogni specifica popolazione cellulare, potremo indirizzare le terapie specificamente sulla base di quel tumore, personalizzare le cure, quella che viene chiamata adesso medicina di precisione. Siamo un po' agli albori di questo passaggio, ma è qui, è in questo momento che stanno avvenendo i più grandi cambiamenti. E allora, abbiamo parlato di ricerca, naturalmente vogliamo parlare anche di prevenzione, se possibile, nei riguardi della salute, del benessere di questo organo, di cui con l'aiuto del dottor Balzano impareremo a conoscere qualche cosa di più nella seconda parte della trasmissione, subito dopo le informazioni sul traffico. E intanto 800 24 00 24, 349 238 6666, arrivano già dei messaggi curiosi come quelli di Francesco. Dottor Balzano, è vero che si può morire se il pancreas si sgonfia? Che cosa vorrà dire Francesco? Lo scopriremo tra poco. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di pancreas, la giornata lo impone, è la terza giornata mondiale sul tumore del pancreas. In occasione di questa giornata vengono illuminati di viola monumenti e luoghi un po' in tutto il mondo. Quest'anno i luoghi illuminati saranno centinaia, dalle cascate del Niagara, Deborah, poi alle piccoli comuni di provincia, passando per monumenti famosi. In Italia saranno comunque 45. Facciamoci mandare le foto dei nostri ascoltatori. Bravo, cliccate e mandate. E il senso è quello di proprio fare luce su una patologia troppo poco conosciuta. Anche noi stiamo cercando di fare la nostra parte. Abbiamo invitato uno dei massimi esperti, il dottor Balzano, che è in linea con noi. Dottor Balzano, abbiamo parlato di ricerca, ma raccogliamo le informazioni utili. Ci aiuti a fare una sorta di carta d'identità di questo organo, quindi connotati, contrassegni salienti, residenza, professione ed eventuali segni particolari. E poi parleremo anche di un'indagine che mette in evidenza quanto sia importante mettersi nelle mani giuste, sempre, ma soprattutto quando ad ammalarsi è il pancreas. Dottor Balzano, allora, ha una forma un po' di una piccola banana. Sì. Mi ricordo che mi aveva detto così. Sì, è proprio così, è un po' difficile immaginarsi come è fatto il pancreas, per cui l'avevo paragonato a una specie di banana, perché è un organo un po' allungato che si trova nella parte alta dell'addome. Dietro allo stomaco, quindi proprio diciamo dove si divaricano le coste, ma molto posteriormente, cioè davanti lo stomaco, cioè davanti il colon, di dietro abbiamo questa specie di bananina che è allungata, diciamo che arriva dalla parte della milza a sinistra e poi scende e arriva fino a dove c'è un po' sotto il fegato, dove c'è il duodeno, e c'è una parte allungata che noi chiamiamo un po' più ingrossata, che chiamiamo testa del pancreas. Questa è un po' la sua sede, come è fatto il pancreas. Dal punto di vista delle sue funzioni, noi non lo conosciamo, ma lui lavora molto e le sue due funzioni principali sono quella di produrre dei succhi pancreatici che arrivano al tratto gastroenterico, in particolare al duodeno, e si mischiano al cibo partecipando ai processi digestivi, permettendo l'assorbimento dei nostri alimenti. E la seconda funzione completamente diversa è quella della produzione di sostanze, ormoni, che vengono immessi direttamente nel circolo sanguigno e regolano diverse funzioni. Il più importante tra questi ormoni, il più noto, è l'insulina. Il pancreas produce l'insulina quando non ne produce abbastanza, quando non funziona bene, l'insulina non è sufficiente per le esigenze dell'organismo, compare il diabete, perché l'insulina è quell'ormone che regola i livelli di zuccheri nel sangue. Quindi quando non c'è abbastanza insulina, i livelli di zuccheri sono troppo alti e uno si ammala di diabete. Dottor Balzano, aggiungiamo però che l'abbiamo anticipato, che è un organo che quando si ammala non dà segni chiari. Ma che cosa lo fa ammalare? Ci sono dei fattori, dei comportamenti a rischio? Del fegato li conosciamo, del cuore anche, stiamo conoscendo quelli per il nostro cervello, almeno i fattori protettivi, quello che aiutano a mantenerlo sano ed efficiente per quanto sia possibile. Ma del pancreas, che cosa lo può mettere in crisi o al contrario lo può in qualche modo tutelare, proteggere? Allora, il pancreas da questo punto di vista... Questa piccola bananina, insomma, che gusti ha sta banana? Ma questa banana si danneggia sempre con i nostri comportamenti scorretti, come la maggior parte degli organi. È sempre importante ricordare come sia necessario che i nostri stili di vita siano stili sani per permetterci di vivere più a lungo e in condizioni migliori. Poi siamo noi a scegliere se invece... Se scegliamo dei comportamenti scorretti, sappiamo che poi ne pagheremo le conseguenze. In particolare quello che fa male al pancreas, la cosa peggiore, è il fumo e l'alcol. Il fumo, per quello che riguarda i tumori, sostanzialmente è la causa principale che noi abbiamo riconosciuto come causa dei tumori del pancreas. Si considera che quasi il 30% dei tumori del pancreas siano legati al fumo di sigaretta. Se uno non fumasse, se tutti noi non fumassimo, già ci sarebbe una riduzione del 30% dell'incidenza dei tumori del pancreas. Ecco, lei ci sta dicendo una cosa, sappiamo che il fumo fa sempre male, però associarlo al pancreas non viene immediato, ancora... almeno tra i non addetti ai lavori. Dottor Balzano, mi scusi. Eh sì, è proprio così, ma non è soltanto il tumore del pancreas che risente del fumo di sigarette, sono moltissimi tumori, certo. Quasi tutti i nostri tumori comunque hanno tra i fattori di rischio il fumo di sigaretta, e quello del pancreas appunto è un fattore molto consistente e sostanzialmente quello che noi riconosciamo come maggiormente associato al rischio di aumento del tumore del pancreas. Quindi fumo di sigaretta, poi abbiamo l'alcol in realtà non è tanto un fattore che può indurre direttamente il tumore, però può far ammalare il pancreas, è il fattore più frequente di pancreatite cronica, la causa più frequente di pancreatite cronica è una malattia infiammatoria cronica che una volta che si è instaurata predispone ad un rischio maggiore di tumore del pancreas. Quindi abbiamo fumo e alcol e poi abbiamo il sovrappeso, l'obesità, il sovrappeso, la dieta scorretta, perché questo stimola insomma una serie di rilascio di sostanze, tra cui anche un aumento della produzione di insulina, che poi agiscono come stimolo sulla proliferazione cellulare e di per sé quindi anche il sovrappeso, l'obesità, può favorire la comparsa del tumore del pancreas. Quindi diciamo dal punto di vista dei fattori che possono essere corretti, questi sono sicuramente quelli più importanti. Dottor Balzano, voglio leggerle questo messaggio. Un mio caro amico, 2 mesi fa, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, ha avvertito un dolore al fianco. È andato a fare un esame, hanno trovato tutte metastasi, è mancato proprio ieri. Ma come mai così veloce? Gli hanno detto che è partito dal pancreas, ma lui non ha avvertito nulla. È possibile che sia così rapido? Allora, è una storia, purtroppo è vero che possono accadere queste cose, questo non vuol dire che sia così rapido. Cerco di spiegarmi meglio, cioè è vero che il tumore del pancreas nella maggior parte dei casi viene diagnosticato quando ha già delle metastasi, più del 50% dei casi. Noi troviamo il tumore, vediamo che c'è un tumore del pancreas e contemporaneamente vediamo le metastasi, cioè vediamo questi noduli tumorali a distanza. Questo in più del 50% dei casi. Non vuol dire questo che si sia formato 2 mesi prima e che quindi sia tutto comparso e cresciuto in 2 mesi. Vuol dire che il tumore magari era lì anche da anni, ma non dava segno della sua presenza. E per cui se una persona non eseguiva un esame per un altro motivo, cosa che adesso succede un po' più frequentemente, cioè che uno faccia un esame perché ha avuto una colica renale e si vede che c'è un nodulo nel pancreas, un nodulo che può essere poi benigno, maligno, molto spesso sono benigni, ma le persone non lo sanno e allora entrano nel panico, come comprensibile. Molti dei nostri ascoltatori, almeno 3 o 4 messaggi che sto leggendo, ci chiedono se esiste una familiarità. Tante domande anche riguardo alla pancreatite, cioè l'infiammazione del pancreas. Ne parliamo col dottor Balzano, parleremo anche di questa indagine che sottolinea quanto sia importante affidarsi ai centri qualificati. In un certo senso la quantità fa anche la qualità, ma ne parliamo subito dopo col dottor Balzano, dopo il GR. Vi aspettiamo anche con le vostre domande e le vostre richieste. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, ultimi minuti dedicati a raccogliere informazioni, a rispondere ai vostri dubbi sul pancreas. Parliamo di prevenzione, abbiamo aperto questo nostro appuntamento con il nostro ospite, il dottor Balzano, sottolineando i successi della ricerca che sta naturalmente ancora lavorando. Dottor Balzano, tanti ascoltatori chiedono come si può fare prevenzione se il pancreas si ammale, non dà segni, come è possibile intercettarlo in modo veloce? Deborah, buongiorno da Milano. No, io volevo sapere se una volta che uno fa gli esami del sangue ci sono dei valori di riferimento che magari proprio riguardano lo stato di salute del pancreas. Io sapevo più o meno che, non so, le amilasi bisognava tenerle sotto controllo, però non so se è l'unico valore, oppure ci sono altri valori che uno deve, insomma, metterci in allarme, oppure capire no, ok, è tutto a posto, piuttosto che c'è un valore invece che si riferisce al pancreas specifico. Grazie Deborah. Dottor Balzano, rispondendo a Deborah, risponde molte richieste dei nostri ascoltatori che ci dicono: beh, però se non fa male, non dà segni, poi ci dite che il tumore può essere molto aggressivo, anche se lei ha specificato che ci sono tanti tipi di tumori, non sempre il tumore si tratta di un tumore aggressivo e maligno, ma l'ascoltatore dice: ma allora che cosa faccio? Questa piccola banana, come la tengo sotto controllo? Allora, appunto, attacchiamoci a queste due domande. Per quello che riguarda la prima, sugli esami del sangue, in realtà io non consiglierei a nessuno di fare degli esami del sangue per controllare come va il pancreas, a meno che uno abbia dei disturbi, ma farli a tutti in realtà non porterebbe assolutamente a niente, perché alterazioni delle amilasi, delle lipasi, cioè degli enzimi pancreatici del pancreas, oppure alterazioni anche dei marcatori tumorali, se non sono collegati ad un problema specifico, ad un sintomo, ad un disturbo, nella maggioranza dei casi non sono segno di malattia, servono soltanto ad allarmarci la persona e a buttare soldi. A buttare soldi e innescare delle ricerche che possono veramente portare avanti per mesi la persona, a richiedere sempre ulteriori pareri, ulteriori esami, e non possono portare a niente, per cui non serve a nulla tenere sotto controllo le amilasi, le lipasi o gli enzimi o i marcatori tumorali se uno non ha disturbi. Ovviamente ogni situazione è diversa, ma diciamo, fare queste cose di screening non serve, perché come abbiamo detto, per fortuna non è così frequente questo tumore, abbiamo 12.000-13.000 nuovi casi ogni anno in Italia, quindi sono tutto sommato non un numero così grande, quindi non ha senso che tutti facciano gli esami di controllo, certo, ma solo se ci sono dei problemi. Esiste familiarità? Così rispondiamo anche agli ascoltatori che hanno avuto casi in famiglia. Il 100% dei casi no, non c'è familiarità per il tumore del pancreas, si tratta di alterazioni che si inducono col passare degli anni, insomma con l'invecchiamento si rompono dei meccanismi cellulari e può venire fuori il tumore. Ma Alessia ci scrive, dottor Balzano, ma alla fine quali sono questi disturbi o problemi per un pancreas malato? Allora, ritorniamo un attimo al problema della familiarità, ecco, sì. C'è però un 10% di gruppi familiari che hanno maggiore rischio, in questo caso c'è una sorta di predisposizione genetica, se uno ha due parenti di primo grado oppure tre parenti complessivamente nel gruppo familiare che si sono ammalati di tumore del pancreas, questa persona è a rischio di ammalarsi, e allora in questo caso, essendoci un rischio maggiore, vale la pena di fare degli esami di screening e affidarsi ad uno dei centri che si occupano proprio di malattie del pancreas. E invece, Nicoletta, qual era la domanda? La domanda degli ascoltatori, lei ha detto, non è il caso di fare degli esami se non in presenza di particolari disturbi. Allora, la parola particolari disturbi, ci attiviamo e diciamo, ma che cosa vuol dire? Una difficoltà digestiva? Una nausea? L'inappetenza? Un dolorino? Un senso di peso? Allora, appunto, il pancreas è difficile che si manifesti con dei disturbi specifici, purtroppo sono molto aspecifici i disturbi del pancreas, e le due cose principali sono i dolori, e sono dei dolori nella parte alta dell'addome, qualche volta irradiati anche alla parte della schiena, e poi ci sono disturbi digestivi. In realtà i disturbi digestivi nella stragrande maggioranza dei casi sono legati a problemi proprio del tratto gastroenterico, quindi prevalentemente gastrite, duodenite e altre cose in cui il pancreas non c'entra niente, però quando c'è una persistenza di questo tipo di disturbi vale la pena comunque di riferirsi ad un medico e fare degli esami, banalmente di screening come l'ecografia. Altre cose che dobbiamo tenere sotto controllo che potrebbero indicarci, quindi abbiamo i dolori, ma i disturbi digestivi, anche se appunto prevalentemente sono legati ad altre cose. Un sintomo frequente, ma appunto in questo caso non è che uno può ignorarlo, è quando uno diventa giallo, perché il pancreas nella porzione della testa può far chiudere lo scarico della bile, e questo intasa poi il fegato e tutti uno diventa giallo, e per questo obbligatoriamente deve andare a fare degli esami e si può scoprire che c'è il pancreas ammalato. Ed infine qualche volta il diabete di recente insorgenza, soprattutto quello, diciamo, il tipo 2, ecco, non il tipo 1 che non c'entra niente, ma il diabete di tipo 2 sopra i 50 anni, se compare un diabete almeno un'ecografia dovrebbe essere fatta per controllare che comunque non ci sia una malattia del pancreas che sostiene il diabete. Dottor Balzani, in chiusura, una regola fondamentale per una persona che ha una malattia del pancreas è quella di cercare un centro specializzato nella cura di questo organo, perché l'esperienza, diciamo, è un criterio fondamentale, in particolare in chirurgia pancreatica. Ma non tutti i centri che eseguono gli interventi sembrerebbero avere la sufficiente esperienza. Ne avevamo parlato perché l'Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas, di cui lei fa parte, ha svolto insieme alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e il Centro di Ricerca CERGAS dell'Università Bocconi un'indagine che ha messo sotto esame quasi 11.000 interventi chirurgici per cancro del pancreas. Che cosa ne è emerso? Allora, questo è un messaggio molto importante, perché come diciamo il pancreas non è che si ammala frequentemente ed è un organo difficile da capire, da curare e anche da diagnosticare, anche gli esami diagnostici sono piuttosto complessi per capire che malattia ha il pancreas e quindi essendo una malattia tutto sommato rara e difficile da capire è ovvio che più se ne vedono e più ce ne si capisce. E soprattutto questo per la chirurgia del pancreas è considerata la chirurgia più complessa della chirurgia addominale, per cui affidarsi ad un centro con esperienza significa avere meno rischi di complicanze, meno rischi di essere sottoposti ad interventi inutili, meno rischi di morire per l'operazione. Quello che noi abbiamo fotografato con questa ricerca pubblicata pochi mesi fa era proprio la situazione che noi abbiamo visto. Il dato preoccupante è che in Italia ci sono più di 500 ospedali che operano pazienti per tumore del pancreas, mentre invece all'estero, dove questo sistema in alcuni paesi è regolamentato, per esempio in Inghilterra ci sono 20 centri in tutto il paese che sono autorizzati ad eseguire interventi di chirurgia pancreatica, mentre invece in Italia dicevamo 500 e appunto più di 400 di questi 500 centri esegue 3 interventi di resezione pancreatica all'anno. Ecco, ne vorremmo pochi ma buoni, come si dice. Così. Dobbiamo sviluppare questi centri, aumentarne il numero e fare in modo che tutti i pazienti abbiano il diritto di ricevere delle cure adeguate, senza affidarsi al caso andando nell'ospedale più vicino a casa, come facciamo tutti noi quando abbiamo un problema, ci rivolgiamo al centro più vicino. Ma non esistono delle direttive per far sì che poi da questo centro periferico i pazienti vengano spostati convogliati in un centro che deve avere tutte le caratteristiche per curare al meglio, come è doveroso, il paziente. Dottor Balzano, la saluto. Chiedo ecco, ai nostri. Nicoletta, posso dire un'ultima cosa, rubando proprio 30 secondi a Debora? E allora volevo ringraziare tutte le associazioni di pazienti che si muovono nell'ambito del tumore del pancreas con i loro familiari, che fanno veramente un lavoro fondamentale per lo stimolo, per la ricerca, per farci rendere conto anche a noi che curiamo queste malattie di quali sono le esigenze davvero dei pazienti e qual è la necessità di migliorare, di spingere questa ricerca. Sono le associazioni dei pazienti che hanno ideato, che hanno portato avanti questa giornata mondiale e noi veramente vogliamo ringraziarli. Per chi vuole saperne qualcosa di più, oggi pomeriggio le associazioni hanno organizzato qui a San Raffaele un incontro con gli specialisti, con noi specialisti che ci occupiamo di questo, che sarà trasmesso in streaming sul sito giornatamondialetumorepancreas.org e sarà alle 15 di oggi pomeriggio, giornatamondialetumorepancreas.org, per chi volesse saperne più del tumore del pancreas e di questo confronto fra pazienti, associazioni e gli specialisti. Grazie dottor Balzano per questa informazione, nello stesso tempo vi invitiamo come sempre a scriverci a cuoredenari@radio24.it e noi naturalmente mettiamo al lavoro i nostri esperti. Dottor Balzano, buona giornata. Grazie, grazie a presto. A voi, buona giornata. Allora, la borsa è negativa, qua stamattina vedo Milano molto in difficoltà, sta perdendo un punto percentuale, sono negative anche le altre piazze europee, è stata negativa leggermente anche ieri sera Wall Street, che comunque sta continuando a marciare sui suoi massimi, sui suoi record e sta soprattutto correndo il dollaro. Allora, cosa abbiamo visto in questa ultima settimana? Di tutto. Di tutto e di più. Wall Street continua a toccare un record al giorno, il dollaro sta correndo, si sta rafforzando su tutte le altre valute, soprattutto su euro e yen, hanno ripreso a salire i rendimenti obbligazionari e questo è un tema molto rilevante per noi che stiamo registrando un ritorno al tema spread che da qualche giorno flirta con quota 170 ma lo ha fatto anche con 180 punti base, proprio uno spread un po' leggerone flirta in questo periodo. I tassi di interesse in America